24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:29 minuti in questo istante. Eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9. Il nostro sondaggio di oggi, che potete votare su radio24.it nell'home page o anche il sole24ore.com. Domani è il primo maggio. Domani è il primo maggio, festa del lavoro tradizionalmente, ma ha suscitato per alcuni scalpore il fatto che in molte città i comuni abbiano dato una deroga per tenere aperti i negozi. Infuriati i sindacati, anche esponenti della Chiesa, ma come, si rischia di trasformare la festa del lavoro nella festa del profitto, nella festa dello shopping? Che ne pensate? Molti comuni tengono aperti i negozi anche alla festa del primo maggio, festa del lavoro? È una scelta che condividete? Siete d'accordo con i negozi aperti in molti comuni? Votate lì, ne parleremo poi alle 8:30 e ora andiamo a scoprire che cosa ci offrono i giornali in edicola. In primo piano. In questo venerdì 30 aprile c'è da dire che è la politica soprattutto, con la vicenda Scajola, la bufera sul ministro Scajola e la vicenda invece del rapporto Fini-Berlusconi che continua a dominare sulle prime pagine dei giornali. Anche se l'economia, e a questo proposito il Sole 24 Ore voglio iniziare da qui come titolo di apertura, la Grecia ovviamente sempre in primo piano, la Grecia sotto tutela UE FMI, cioè Unione Europea e Fondo Monetario, austerità shock da 20 miliardi, tregua sui mercati, bene l'asta BTP. Ma come detto, la vicenda Scajola per Repubblica, G8, ecco le carte contro Scajola. Il Corriere, Scajola, ecco le nuove accuse. La Stampa, governo, bufera su Scajola. Per il Fatto Quotidiano, le case dell'amore, perché c'è la vicenda della casa che ora vedremo di Scajola. La casa delle libertà per l'unità, con la foto di un appartamento con vista Colosseo, quello incriminato. C'è invece chi sceglie la politica, vale a dire Libero, il giornale. Il giornale che di solito attacca Fini. Oggi che cosa ha fatto? Sentite l'attacco del giornale, il titolo d'apertura, i soldi Rai alla moglie di Bocchino. Non solo i soldi Rai alla suocera di Fini, oggi l'attacco è per Italo Bocchino, i soldi Rai alla moglie di Bocchino, vedremo di che si tratta. Fini perde la prima testa, è invece il titolo di Libero. Ma come detto, la vicenda Scajola è quella che sicuramente sta facendo più discutere. La vicenda è riassunta in paginate ovunque. Leggo da Repubblica, pagina 2 e 3, Carlo Bonini. Scajola, le carte che accusano, l'atto per la casa al ministero, ricevemmo da lui tutti i soldi. La vicenda qual è? Luglio 2004, l'imprenditore Diego Anemone, secondo gli inquirenti, quelli dei grandi appalti del G8, avrebbe consegnato 900.000 euro all'architetto Angelo Zampolini, indicando allo stesso Zampolini l'uso che ne dovrà fare, e l'architetto Zampolini avrebbe versato questi 900.000 euro in contanti sul conto della filiale 582 della Deutsche Bank di Roma, ritirando 80 assegni circolari intestati a Barbara e Beatrice Papa, proprietarie in un appartamento di vendita in via del Fagutale a Roma. Ad acquisire questo appartamento sarebbe stato appunto Claudio Scajola, allora ministro per l'attuazione al programma. Tutta la vicenda ricostruita appunto da Carlo Bonini. Il 6 luglio, giorno del rogito, gli 80 assegni circolari di Zampolini vengono incassati dalle due sorelle Papa, mentre Scajola versa i 600.000 euro ufficialmente pattuiti, così scrive Bonini. Perché tra l'altro 80 assegni, sempre secondo Repubblica? Perché gli assegni circolari devono avere importi inferiori ai 12.500 euro, soglia oltre la quale la banca è tenuta a segnalare l'operazione al circuito interbancario e alla Guardia di Finanza. E così vengono fatti importi sotto questa cifra. Ma si sbagliano, Anemone e Zampolini sono convinti che in questo modo nessuno andrà a ficcare mai il naso in quell'operazione. Si sbagliano, alla Deutsche evidentemente trovano qualche funzionario pignolo che in quel luglio di 6 anni fa vede in quella curiosa operazione di cambio quella che tra gli addetti si chiama operazione sospetta di frazionamento, e per questo segnala al circuito interbancario questa questa operazione. Anche Fiorenza Sarzanini, pagina 6, il ministro, l'appartamento e quattro testimoni contro, i quattro testimoni che secondo Fiorenza Sarzanini smentiscono la versione fornita dal ministro Scajola sull'appartamento acquistato nella zona Colosseo del 2004. A consegnare gli 80 segni circolari per un totale di 900.000 euro fu lui, dicono i testimoni, interrogati ovviamente dai PM. Lo dicono anche le due sorelle, appunto intestatarie di questo appartamento. Fu proprio Scajola a prendere i titoli e a consegnarceli, ma nell'atto non figura questo passaggio perché ci eravamo accordati per denunciare soltanto 600.000 euro. Una conferma che, secondo il Corriere, arriverebbe anche dal notaio Napoleone, interrogato qualche giorno dopo. Insomma, la vicenda è diventata una vicenda politica perché Scajola è andato dal Premier ieri alle 5, ha offerto le dimissioni. Berlusconi gli ha respinte. Pagina 3 di Repubblica, il ministro dal Premier: capirò chi c'è dietro, sono vittima di una maialata, mi devi credere. Così si sarebbe rivolto a Berlusconi, che gli ha detto: torna a lavorare tranquillo, difenditi con il coltello tra i denti. C'è però, scrive Ugo Magri, una frase buttata lì da Scajola nella mezz'ora di colloquio col Premier che non lascia tranquillo affatto Berlusconi. Sibillina a dir poco: voglio capire chi c'è dietro gli attacchi nei miei confronti, e può darsi che prima o poi lo capisca. Perché? Perché, scrive anche Francesco Verderami sul Corriere, l'idea è di un sindrome d'accerchiamento. Il Cavaliere teme una nuova offensiva giudiziaria. Colpiti altri perché non hanno fermato me. Scrive Verderami: il Premier ha intuito che il caso non è chiuso, anzi si è appena riaperto. I fantasmi sono tornati a danzare davanti al Cavaliere, ombre senza volto che vestono la toga, la spectre giudiziaria che riprende forma e sente ostile, che avrebbe cambiato strategia puntando a colpire chi gli sta vicino, dato che colpendo me non sono riusciti ad abbattermi. Anche se da più parti, non solo come comprensibile dai giornali che più fanno, diciamo, opposizione, che più criticano il governo, come per esempio Il Fatto, a pagina 2-3 Marco Lillo scrive: ora il ministro che non ha chiarito si dovrebbe dimettere. Ma ci sono anche, per esempio, Filippo Facci in prima pagina su Libero firma il suo solito appunto: Scajola è sereno, beato lui. Qui, scrive Facci, non ci sono sfumature. I riscontri dei magistrati di Perugia dicono il vero oppure il falso. Il costruttore Anemone ha comprato un mega appartamento per Scajola oppure non l'ha comprato. Non ci sono mezze misure. Insomma, il ministro è coinvolto oppure non lo è. E di certo qualcuno si dovrebbe dimettere, dovrebbe andare a casa. O Scajola, che nega il vero, o i magistrati che sostengono il falso. L'idea però di molti giornali, davvero della maggior parte dei giornali, è insomma, e lo scrive anche Facci, è il caso che il ministro fornisca qualche spiegazione seria, senza appellarsi al segreto istruttorio, senza paventare oscuri manovratori, disegni preordinati, senza ostentare serenità non facile da comprendere. Lui sarà anche sereno, noi un po' meno. Anche Massimo Giannini in prima pagina di Repubblica sostanzialmente dice così: noi siamo garantisti ed essendo garantisti speriamo che questa brutta storia si risolva in una bolla di sapone, ma gli elementi a carico del ministro sembrano pesanti e se il ministro si ritiene vittima di un'intimidazione non può limitarsi a parlare di attacco inspiegabile, ha il dovere di spiegare se la compravendita immobiliare che lo riguarda è vera o è falsa. Se è convinto che ci sia un misterioso disegno preordinato, non può limitarsi a evocare oscuri manovratori, ha il dovere di spiegare ciò che sa di questo complotto e chi sono i complottisti. Se invece non è in grado di fornire al paese queste spiegazioni, Scajola ha un altro dovere: dimettersi. Si chiama etica della responsabilità. Insomma, trovate paginate sulla vicenda Scajola. Il più graffiante, come al solito, è Iena, sulla pagina 3 della Stampa, Riccardo Barenghi, l'unico ministro che ha messo in pratica il piano casa. Allora, c'è anche un Mattia Feltri sulla Stampa che vi invito a leggere: quando il peso politico si misura in metri quadri, cioè il rapporto tra politici nella storia della Repubblica e gli attici, i superattici, gli appartamenti, così come anche un'Annalena Benini in prima pagina sul Foglio: signor ministro Scajola, per avere un bel terrazzo bisogna pagarselo col mutuo, cerco casa. Vabbè, ma comunque questa è una notizia sicuramente di che tiene in maggiore tensione anche all'interno del governo, insomma, questa vicenda giudiziaria. Ne trovate ovunque se volete. L'altra notizia politica è quella del rapporto Berlusconi-Fini, e guardate che se oggi leggete i giornali pare che il termometro segni Buriana in arrivo. Allora, ieri la vicenda Italo Bocchino, che si è dimesso, che oggi fa un'intervista solo, cioè nel senso, ho fatto varie interviste in TV, ma oggi la troviamo sull'Unità, pagina 16. Silvio mi ha fatto fuori, continua a dirlo da ieri, insomma. Rifarei tutto, sì, tranne la rissa in TV da Paragone, il programma che ha scatenato un po' anche le ire di Berlusconi. Distruggere il PDL è come l'euro, forte, ma oggettivamente è a rischio, dice Italo Bocchino. Al Cavaliere è convenuto farla fuori, ci rimetterà molto più lui che io. Creare un proto martire, passare per epuratore, è un danno enorme per un uomo che ci tiene a dare l'immagine del buono. Che senso ha farla fuori? Chiede Susanna Turco sull'Unità. Il messaggio agli altri è: state buoni, pensate quando toccherà discutere la vostra ricandidatura. Comunque, l'attacco oggi frontale e del giornale è proprio a Italo Bocchino, o meglio alla moglie. La consorte del Fignano di Ferro ha ottenuto un appalto da 6 milioni di euro per produrre una fiction. I soldi Rai alla moglie di Bocchino. Se la suocera di Fini viene pagata dalla Rai 1,5 milioni di euro, la moglie di Italo Bocchino, scrive Laura Rio, ne guadagna 6 e ne riceverà ancora di più se un altro progetto con la Rai andrà in porto, perché la consorte di Bocchino, Gabriella Buontempo, è titolare di una società, la Good Time Enterprise, che da tempo lavora per la TV di Stato, fa fiction. L'ultima, per esempio, è La Narcotici, fiction d'azione con Ricky Memphis. La serie, attualmente in produzione, andrà in onda in autunno su Rai 2. Budget 6 milioni di euro per 6 puntate. 1 milione a puntata, un budget che il giornale riconosce peraltro in linea con i costi della fiction. Ma ha fatto anche Il Grande Torino del 2005, Le Ali, la stagione dei delitti. Insomma, dalla Rai 6 milioni alla moglie di Bocchino. Questa... la notizia, ma che suona anche, come dire, come un'accusa. Si parla anche del ruolo di Mauro Mazza, direttore della rete Ammiraglia, insomma direttore di Rai 1, attualmente in vacanza in Sudafrica, ma che poi tornerà e che farebbe lavorare soprattutto, questa è, diciamo, si legge tra le righe dell'articolo, darebbe soprattutto anche fondi e farebbe lavorare i finiani, per esempio uno storico come Pino Insegno, tifosissimo della Lazio e compagno di fede calcistica di Mazza e Fini, quindi c'entra anche il calcio, cioè Fini è Fini, Mazza è un finiano, Pino Insegno non si sa se è un finiano, ma comunque tutti e tre tengono la Lazio, e questo è li accomuna secondo il giornale. E Pino Insegno, che casualmente tiene la Lazio come Mazza e Fini, lavorerà presto con il giochino estivo Reazione a Catena. Allora, come detto, il termometro segna Buriana. Leggiamo qualche titolo, così, una carrellata. Perché Berlusconi, che ha fatto un paio di giorni fa, ha riunito alcuni senatori, spesso lo fa un paio di volte al mese, una ventina di senatori, ha fatto una cena e alla cena ha detto alcune cose, che ovviamente oggi sono sui giornali. Confini, la rottura è insanabile, pagina 13 del Corriere della Sera. Bocchino, con me si è comportato in modo insolente. Fini, poteva essere il mio erede, invece mi ha tradito, mi ha fatto gli sgambetti, ne ha fatto una questione di gelosia nei confronti di Bossi. La rottura è insanabile, irreversibile. Ormai Fini si comporta come se non appartenesse più al PDL. Questo Berlusconi è dal Corriere. Poi, pagina 5 del giornale. Silvio scosso da Fini come dopo l'attentato di Tartaglia. Ha detto sempre a questa cena: io non sarò io a decidere la successione, ma il partito. Il problema è che Fini, con i suoi continui controcanti, si è inimicato tutti gli ex di Forza Italia e molti ex di AN. Partita chiusa, dunque. E poi ha rievocato anche Tartaglia: io non ho mai fatto male a nessuno, invece guardate cosa mi è successo, non mi vergogno a dire, ha detto Berlusconi, che quella sera in ospedale ho pianto. Pensate che Libero addirittura titola così: Gianfranco mi ha ferito quasi come Tartaglia, e mette la foto di quel Berlusconi insanguinato dopo l'attentato, che insomma tutto il mondo ha visto. dopo la scena, sempre stralci da quella cena di un paio di giorni fa, dopo la scena di Gianfranco in direzione nazionale mi sono dovuto sedere qualche minuto, non mi aspettavo quella sua reazione, ci sono rimasto male umanamente. Poi Salvatore Dama dice, per carità, non è che ha paragonato alla vicenda Tartaglia, però dice, mi ricordo insomma quella vicenda, l'assimilata, come dire, sono stato male quasi come allora. E ancora, non mi vergogno di dire che ho pianto dopo quello che è successo. Repubblica, il Cavaliere agita la minaccia del voto, sempre dai retroscena della famosa cena di un paio di giorni fa. Per me ormai sono fuori. La storia di Bocchino deve servire da monito da tutti. Più insistono e più mi convinco che la strada per le elezioni è quella da seguire. Addirittura Repubblica dice, in questa cena Berlusconi ha detto, si è parlato anche delle elezioni. Data più probabile, primavera 2011, andranno al rinnovo anche 1100 comuni, tra i quali Torino, Milano, Napoli e Bologna. Quella sarebbe la data prima. In primo piano. La situazione finanziaria, come detto, è dominata insomma dalla vicenda della Grecia. La Grecia sotto tutela, Unione Europea e Fondo Monetario. Questo è il titolo d'apertura del Sole. In Grecia tagli per 20 miliardi. A pagina 3 del Sole è Vittorio Darold, inviato ad Atene, che spiega ora come il governo greco stia cercando di porre un argine alla situazione disastrosa. Che cosa si è deciso di fare? Le prime mosse, il congelamento dei salari, maggiore flessibilità, il taglio della 13ª e 14ª che riguarderà solo i pubblici dipendenti. Una mazzata, scrive Darold, per gli statali abituati a buoni stipendi e a ritmi di tutto riposo. Una pacchia che sembra finita. Ma anche viene fatta filtrare l'idea che sarà aumentata l'IVA di 2 punti rispetto all'attuale 21%, un ulteriore incremento del 10% delle tasse sui carburanti. La benzina già oggi è a 1,4 euro al litro. Stiamo parlando della Grecia, l'aumento dell'IVA, delle tasse anche su tabacco, su alcolici. Insomma, il governo di Atene sta cercando di porre argine, mentre Isabella Bufacchi, a pagina 3, ha seguito Tremonti a Berlino. E Tremonti ieri è tornato a smentire ancora una volta, dicendo si accettano scommesse su questo, che l'Italia, che il governo italiano stia approntando una manovrina di aggiustamento nel 2010, perché a Roma ancora sono circolate voci secondo le quali Berlusconi a cena, quella famosa cena, sempre questa famosa cena con i senatori, queste cene ne succedono di tutti i colori evidentemente, avrebbe parlato dell'eventualità di una manovrina a ottobre o novembre senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Ecco che Tremonti ieri ha dovuto nuovamente smentire. L'altro fronte è quello della Spagna, che il Sole affronta pagina 5, Michele Calcaterra da Madrid. Ovviamente la Spagna, dopo il declassamento di Standard & Poor's, ora sta cercando di rassicurare un po' i mercati finanziari europei, mondiali, che in realtà si tratta di un paese affidabile. Il clima non è certo quello da Day After, dice Michele Calcaterra. Si tenta di gettare acqua sul fuoco della speculazione, di minimizzare l'accaduto, sostenendo appunto che la Spagna è un paese affidabile. Dopotutto però c'è anche la spiegazione del perché mai Standard & Poor's ha tagliato per la seconda volta il rating sovrano della Spagna. Certo che però la preoccupazione aumenta. La notizia però in qualche modo anche economico-finanziaria che troviamo a pagina 26 del Corriere mi interessa, perché attenzione, la trovate in taglio basso, però quasi sfuggente, però interessante. Evasione e riciclaggio da San Marino, dossier con 2000 nomi. Sta per arrivare il furgoncino a Viale 21 Aprile a Roma, sede del quartier generale della Guardia di Finanza. Arriverà nelle prossime ore direttamente da San Marino. Contiene la bellezza di quasi 2000 dossier intestati altrettanti cittadini e imprese italiane sospettati di aver riciclato più di 100 milioni di euro attraverso una società sammarinese finita nel mirino della Guardia di Finanza. Si tratta della San Marino Investimenti, la SMI. È un'inchiesta che per ora vede i vertici della SMI sotto appunto accusa. ma che ora appunto potrebbe vedere allargarsi con personaggi anche noti, soldi frutto di evasione fiscale, illeciti societari. Secondo gli inquirenti, in questi 2000 nomi ci potrebbero essere 2000 dossier, appunto, nomi famosi anche di personaggi pubblici, dello sport, dello spettacolo, giro da 100 milioni, staremo a vedere. Ora voglio passare al Messaggero, perché due giorni fa, quando abbiamo parlato di alcol e guida, a me risuona ancora nelle orecchie quel grido vergogna della presidente delle associazioni delle vittime della strada, no? Sulla vicenda di quel ragazzo che, già ritirata due volte la patente, per la terza volta le hanno ridata, ha fatto un incidente sterminando una famiglia, madre, padre e figlioletto di 18 mesi. La vicenda è che è stato rilasciato, cioè non rilasciato, non è in carcere, è agli arresti domiciliari. Perché il Messaggero? Sicurezza stradale, marcia indietro, è l'apertura di prima pagina. È in discussione, come sappiamo, al Senato il disegno di legge sul codice della strada. Ebbene, scrive il Messaggero e denuncia, la nuova legge sta già cadendo a pezzi ancor prima di essere stata approvata. Pagina 5. Una legge sulla sicurezza stradale. A pochi giorni dalla votazione in commissione vengono meno i capisaldi che la caratterizzavano e l'avevano fatta dipingere come la legge della tolleranza zero. Bocciato l'emendamento Giovanardi che prevedeva la chiusura dei locali notturni alle 4 e lo stop alla vendita di alcolici alle 3. Approvato un emendamento leghista che concede addirittura la deroga di 3 ore al giorno a chi si è visto sospendere la patente, vanificando di fatto il provvedimento. Eliminato l'obbligo per i medici di comunicare al Ministero dei Trasporti le patologie dei loro assistiti. Persino l'innocua novità del casco per la bici è nel mirino e minaccia di saltare. Il capolavoro, secondo il Messaggero, è la deroga a ore della patente sospesa, già battezzato come l'emendamento Grappino. Cioè, hai la patente sospesa per l'alcol, si può chiedere una deroga di 3 ore al giorno per riaverla. Io, vabbè, rimango abbastanza basito. Perché? Per motivi di lavoro. Se no, come fai a lavorare? Magari se non bevevi e ti mettevi al volante, risolvevi il problema alla radice. Vabbè, ci fermiamo. Il sondaggio di nostro di oggi, per il quale anche l'Avvenire a pagina 2 dedica un editoriale, la nuova deriva shopping prima di tutto, è questo. Domani è il 1° maggio. Molti comuni tengono i negozi aperti. Per i sindacati è uno sfregio alla memoria del lavoro, alla festa del lavoro che dovrebbe porre l'uomo e non il mercato, il profitto, lo shopping in primo piano. Per invece i commercianti, la Confesercenti, per molti comuni bisogna affrontare la crisi, rilanciare i consumi. Non è una svendita ideologica quello di tenere aperti gli esercizi commerciali, perché anche quello è il diritto, la libertà di garantire il lavoro. Che ne pensate? Molti comuni tengono aperti i negozi. Siete d'accordo? Questo anche il 1° maggio. Votate su radio24.it o il sole24ore.com. Le 8:18 minuti, siamo di nuovo in diretta con l'economia. Soldi e dintorni. Ancora con Valentina Furlanetto. Buongiorno Alessandro. Fino alla fine della settimana. Esatto, buon venerdì a tutti e anche agli ascoltatori ovviamente. Oggi a Salvadanaio parliamo, intanto lo anticipiamo, di fondi pensione a mezzogiorno, mentre a Soldi e dintorni questa mattina ci occupiamo di energia elettrica e gas. È stato pubblicato infatti un bando di gara per progetti che hanno come scopo quello di favorire la soluzione delle controversie fra i clienti del servizio elettrico e del gas e gli operatori, attraverso la formazione di conciliatori dell'Associazione dei Consumatori. Vedremo esattamente di cosa si tratta e per farlo abbiamo un ospite, l'ingegner Alberto Grossi, direttore dei Consumatori e Qualità del Servizio, proprio dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, per un consumatore, questa cosa che abbiamo tentato di riassumere, che cosa significa? Significa che se si trova ad avere qualche problema col proprio fornitore di energia e non è riuscita a risolverla chiamandolo, mettendosi in contatto, e quindi ha in corso una controversia, può avvalersi dell'aiuto di un'associazione di consumatori aderente al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti per trovare una soluzione bonaria, paritetica sul suo problema. Ovviamente questo richiede che il fornitore di energia abbia stipulato un protocollo di intesa volontario con una o più associazioni dei consumatori. Quindi la prima cosa che deve fare è chiedere, se non è riuscito a risolvere la sua controversia, al proprio fornitore a quale associazione di consumatori può rivolgersi se hanno un protocollo di intesa di questo genere. Di solito le controversie sono quelle per cui è arrivata una bolletta che abbiamo già pagato, cose di questo tipo, no? Sì, direi normalmente riguarda problemi di importi fatturati o altre questioni attinenti la fornitura, il contratto di fornitura di energia elettrica o di gas. Quindi per risolvere queste controversie, appunto, ci saranno dei conciliatori. Questi conciliatori verranno formati, per farlo ci vogliono dei soldi. Da dove vengono presi? Dunque, la novità è che per la prima volta l'autorità dell'energia è riuscita ad attivare il finanziamento con le sanzioni che ha irrogato agli operatori del servizio a causa di mancato adempimento alle proprie direttive. Quindi, come dire, sanzioni date per un servizio non adeguato a sfavore dei consumatori che ritorna in ciclo a favore dei consumatori stessi. Un ciclo virtuoso, quindi per una volta possiamo dire una buona notizia. Quanti sono questi finanziamenti? Su quanto si può contare? Allora, in totale il piano dei progetti che riguarda due anni, 2010-2011, ammonta a circa 2,6 milioni di euro, dei quali più di 800.000 riguardano questi primi bandi, cioè quelli della formazione dei conciliatori delle associazioni dei consumatori. Poi ci sarà una seconda tranche che partirà nei prossimi mesi, altrettanto importante, di 1,3 milioni di euro per la qualificazione degli sportelli territoriali delle associazioni dei consumatori, per poi arrivare ad un ultimo progetto per ulteriori 400.000 euro per la divulgazione territoriale, per consentire quindi a tutti i consumatori di venire a conoscenza di quelli che sono i diritti nella fornitura di energia elettrica e gas. Perché tra gli obiettivi non c'è solo quello di formare i conciliatori, ma anche di informare meglio i clienti. Assolutamente, cioè questi progetti vanno ad aggiungersi a tante altre attività messe in atto dall'autorità dell'energia per la tutela dei consumatori di energia, dove un tema importantissimo è quello dell'informazione, cioè il cliente deve essere messo in grado di avere tutte le informazioni, sia per scegliere in modo consapevole il proprio fornitore di energia, sia per tutelarsi e far valere i propri diritti. Qua ne cito solo alcuni: l'autorità di energia ha attivato uno sportello per l'energia, ha messo online un sistema trova offerte per comparare le offerte che sono presenti sul mercato dell'energia elettrica e da pochi giorni anche per il gas, e poi ancora altre iniziative come l'Atlante dei diritti dei consumatori che danno una guida, un vademecum per i consumatori di energia. C'è anche un numero verde, che fa un po' gara con il nostro numero verde, ce lo ricorda? Sì, è 800 166 654, dove c'è appunto una staff di persone con elevata professionalità che rispondono su cinque temi fondamentali, che sono i due bonus sociali sia per l'energia elettrica sia per il gas, rispondono sui temi generali della liberalizzazione dei servizi, da poco sulle prezzi biorari che entreranno in vigore dal 1 luglio, per cui per chi ha il contatore elettronico già telegestito e teleletto a distanza, e poi ancora come fare a inviare un reclamo e per chi l'avesse già presentato al proprio fornitore di energia a che punto è il reclamo eventualmente mandato all'autorità dell'energia attraverso lo sportello nel caso non avesse avuto adeguate risposte dal proprio fornitore di energia. Quindi lei ci ha spiegato che in un ciclo virtuoso questi soldi che sono ricavati dalle sanzioni date agli operatori per di servizio o altro ritornano un po' ai consumatori, ma di che tipo sono queste sanzioni e a quanto ammontano di solito? Ma le sanzioni, devo dire, è qualcosa che l'autorità dell'energia vorrebbe non dare, perché significa che qualche operatore dell'energia elettrica, del gas o distributore o venditore non ha adempiuto completamente alle direttive. Si tratta di sanzioni che possono riguardare aspetti molto diversi, che possono andare dalla mancata indicazione in bolletta di informazioni indispensabili piuttosto che un non adeguato servizio di pronto intervento per il gas, piuttosto che tariffe non applicate correttamente. Ecco, capisce il ventaglio delle possibilità di non adempimento direttive dell'autorità dell'energia è ampio e in tutti i casi impatta comunque sul consumatore per un servizio che non risponde alle caratteristiche prescritte dall'autorità dell'energia. A quanto può arrivare in euro una sanzione dell'autorità? Ma guardi, può arrivare a qualche milione di euro, ma è sempre proporzionata a quello che sono la gravità dell'inadempimento e la dimensione dell'azienda, il suo fatturato. L'autorità dell'energia si è dotata di un regolamento sulle sanzioni che definisce proprio dei criteri che individuano e la dimensione del soggetto, il fatturato e la gravità dell'adempimento, ma anche come dire, il comportamento dell'azienda nel senso di mitigare l'eventuale multa che l'autorità commina e che commina ovviamente sempre a valle di un procedimento dove il soggetto, l'azienda, ha diritto ad un contraddittorio, ad una difesa. Velocemente, perché siamo in chiusura, i prossimi passi di questo progetto? Adesso c'è stato il bando di gara? Sì, i prossimi passi: entro la fine del mese di maggio, 31 maggio, le associazioni dei consumatori o da sole o in gruppo presenteranno alla Cassa Conguaglio, che diciamo l'ente che l'autorità dell'energia ha deputato per l'esame dei progetti, i loro progetti, verranno esaminati, quindi si formerà una graduatoria, verranno premiati i progetti migliori e quindi si inizieranno i corsi di formazione che andranno poi a concludersi nel 2011, e a questo punto avremo un aggiornamento, un numero maggiore di conciliatori su tutto il territorio nazionale in grado di assistere i consumatori che volessero avvalersi di questa modalità per la risoluzione delle controversie. Al momento quanti sono i conciliatori e quanti sperate di averne? Ma guardi, la formazione è già stata fatta in passato, siamo arrivati a circa un migliaio di conciliatori in giro per l'Italia, o meglio di sportellisti, di conciliatori, perché anche qua è importante capire che noi formiamo gli sportellisti, cioè quelle che sono le persone delle associazioni che sono in diretto primo contatto con il consumatore, che poi devono indirizzare a quelli che sono i veri e propri conciliatori di numero più ridotto e che sono invece questi in grado di assistere il consumatore nel colloquio col proprio fornitore per addivenire ad una come dire, ad un accordo bonario per la risoluzione. L'obiettivo quindi per di averne? Come? O l'obiettivo è di averne quanti? Ma guardi, sono previsti 10 corsi per gli sportellisti di base, 10 per i conciliatori, e quindi stiamo parlando in tutto di altri 200 conciliatori e altri 200 sportellisti da aggiungere a quelli che già sono stati Benissimo. Formati dall'autorità. Grazie ingegnere Alberto Grossi, vi ricordo fondi pensione, il tema di Salvadanaio invece a mezzogiorno. Alessandro? Eccoci qua, allora grazie. Grazie Valentina. Grazie a voi. Da lunedì torna anche Deborah Rosciani. Sì. Ai noi, ma no, l'attendiamo tutti con ansia. Fai così anche con lei. Allora, noi parliamo della festività del primo maggio. Domani, primo maggio, molti comuni hanno deciso di tenere aperti i negozi. I sindacati si sono adombrati. È la festa del lavoro, è la festa dei lavoratori. Non diventi la festa del mercato, del profitto, dello shopping. Voi che ne pensate? Molti comuni tengono aperti i negozi anche il primo maggio. Siete d'accordo? Eccoci qua alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, il nostro sondaggio di oggi, parliamo del primo maggio, la festività del primo maggio che ha assunto, sta assumendo quest'anno un aspetto particolare, perché molti comuni hanno deciso con delle deroghe, con delle ordinanze, di concedere a chi lo vuole, ai negozianti, agli esercenti, di tenere aperti i negozi. Questo ha scatenato un dibattito da giorni. E allora, il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Negozi aperti in molti comuni anche il primo maggio. Siete d'accordo? Questo vi chiediamo oggi su Radio24.it. Vi state spaccando incredibile, al 50% esattamente per il momento. I sindacati si sono adombrati. Ieri, per esempio, il segretario della CISL Bonanni ha detto: tenere aperti i negozi in alcune città il primo maggio è uno sfregio ai valori del lavoro. il 1° maggio sia lasciato in pace come momento di riposo e festa del lavoro degli italiani. C'è chi accusa, così si svende tutto al profitto, sempre e comunque. Mentre, d'altra parte, molti commercianti dicono c'è la crisi. E poi, insomma, non si può chiudere, per esempio, una città per motivi ideologici, ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Insomma, che ne pensate? Intanto io voglio salutare Susanna Camusso, buongiorno. Buongiorno. Segretario confederale della CGIL, così come saluto l'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà, buongiorno. Buongiorno. Nella commissione lavoro. Ci sta ascoltando anche il vice sindaco di Firenze, Dario Nardella, vice sindaco, buongiorno. Buongiorno. Che tra l'altro forse non pensava di finire Firenze, dico, nell'occhio del ciclone per questa vicenda, non lo so, vice sindaco, per un 1° maggio. Siete la città forse più sotto accusa, no? Beh, non siamo stati i primi, altre città come Genova dagli anni 90 già lo fanno, infatti ci ha sorpreso la sorpresa. Ieri Adriano Sofri su Repubblica ha detto proprio Firenze, proprio quel Matteo Renzi che è la speranza del PD, proprio Firenze, insomma. Ma guardi, la risposta è, guarda, il fatto che una città fa anche delle scelte amministrative, non necessariamente deve fare scelte di politiche che abbiano una rilevanza nazionale. A Firenze sono attesi per sabato e domenica 150.000 persone, perché avremo la notte bianca questa sera, e di fronte a una misura straordinaria di questo tipo noi abbiamo pensato di dare la facoltà nel solo centro della città ai negozi di rimanere aperti. Del resto a Torino, città governata da un noto sindaco, diciamo, reazionario e ultraliberista, Schiamparino, hanno fatto e hanno preso un provvedimento simile. Ma loro c'hanno la sindone, voi avete la notte bianca, loro hanno la sindone. Esatto, noi, la nostra decisione è limitata a quest'anno e ad una situazione del tutto straordinaria, sulla base di una richiesta che è venuta dalle associazioni di categoria in un periodo di grande sofferenza per la crisi economica che stiamo attraversando e che attraversa una città la cui economia, soprattutto per il centro, è basata sul turismo e sul commercio. Questo poi non ha niente a che vedere con la riflessione politica e culturale che è giusto fare sulla festa dei lavoratori. Allora, vediamo di farla. Susanna Camusso, perché anche la CGIL ha sentito anche le parole di Bonanni, insomma i sindacati sono molto arrabbiati, perché queste aperture in alcuni comuni, magari relative anche solo al centro storico come Firenze, fa così arrabbiare i sindacati? Arrabbiare perché il 1° maggio è la festa del lavoro e da molto tempo è stata conquistata come una giornata dedicata al lavoro, ai suoi valori e quindi anche alle manifestazioni, ma ha un'idea del riposo e del rendere evidente quanto sia importante e quanto sia giusto anche celebrarlo. L'idea che i consumi invece e i negozi debbano essere soprattutto, non misurano mai nessun valore, non hanno mai un momento di pausa, è un modo per dire che non è rilevante la festa del lavoro e che l'unica cosa importante è che le persone riprendano a consumare. Devo dire, stride anche molto con la situazione di crisi in cui siamo, con l'abbassamento dei consumi, perché l'idea che questo abbassamento ci sia solo in ragione del fatto che le persone non hanno un sabato libero non fa i conti con la crisi e con i problemi che ci sono. Quindi voglio dire, quando il vice sindaco di Firenze proprio nomina la crisi, il dovere di rilanciare i consumi, lei non la vede così, insomma, anzi. Ma per rilanciare i consumi bisognerebbe dare risorse alle persone per poterle spendere. Se le persone non consumano non è perché non hanno il tempo, è perché sono diminuiti i redditi dei lavoratori, perché c'è la cassa integrazione, perché è aumentata la disoccupazione, perché non c'è una manovra fiscale che ridia risorse al lavoro e alle imprese. È facendo questo che si può immaginare di riprendere i consumi stabilmente, se no si fa un'altra operazione, si concentra il 1° maggio ciò che sarebbe consumato nell'arco del mese, quindi si fa un'operazione fittizia e uno sfregio alla festa del lavoro. Tra l'altro Giuliano Cazzola, lei credo anche sul Quotidiano Nazionale nei giorni scorsi ha fatto un editoriale anche un po' polemico a dire ma saranno questi problemi, lei è invece della teoria che mi pare di capire è un falso problema, cioè non la disturbano i negozi aperti, no? Ma guarda, io sono scandalizzato dallo scandalo, e dico per fortuna che a sinistra ci sono ancora sindaci come Renzi e Camparino a Torino, perché insomma ci sono decine di migliaia di persone che hanno sempre lavorato il primo maggio. Lei stesso, no? Lei che lavora nell'informazione o dei suoi colleghi, il primo maggio lavorano perché la gente deve leggere i giornali, deve sentire la televisione, la radio, i treni vanno. Trovo scandaloso che una città come Roma la gente deve andare in giro a piedi perché non funzionano gli autobus. Quindi se si ritiene che in certi settori, poi è chiaro che non mi pare che siano aperte le fabbriche il primo maggio, se in certi settori legati al turismo, legati alla mobilità delle persone, come sono i musei, come sono i ristoranti, come sono i negozi, il primo maggio si lavora, teniamo conto che quest'anno peraltro il primo maggio capita di sabato, quindi sì, ci sono anche due festività, una vicino all'altra, no? Il primo maggio si lavora, non pare scandaloso. Io trovo scandaloso una vignetta che ho visto su un quotidiano oggi, dove un personaggio che figura il lavoratore dice all'altro personaggio che è il datore di lavoro: mi vuoi sfruttare anche oggi? Cioè, c'è questa idea per cui il lavoro sia una maledizione, no? sia uno sfruttamento, sia una cosa negativa da cui ci si riscatta con il non lavoro, che mi scandalizza, insomma. Trovo che sia veramente una tempesta in un bicchiere d'acqua. Anche se c'è il paradosso per cui molti negozi rimarranno aperti, ma ci sono, credo, Susanna Camusso, anche degli scioperi indetti da dei sindacati, cioè dei dipendenti. Cioè il rischio forse è che si potranno aprire i negozi, ma non ci saranno i dipendenti che li potranno tenere aperti, laddove sono negozi magari non botteghe piccole, ma negozi un po' più grandi. Chiaro che in punti della grande distribuzione la reazione è anche quella del proclamare lo sciopero. Vorrei dire al senatore Cazzola che non c'è una ragione al mondo perché non ci possa essere una giornata in cui si celebra il lavoro, e questo non vuol dire che il lavoro è una maledizione, anzi, ma non si può nemmeno cancellare il fatto che il dover sempre lavorare possa essere anche una condizione di sofferenza per le persone, che non gli permette di appunto celebrare la propria festa. Vorrei anche dire che forse è ancora peggio in un anno in cui il primo maggio nazionale si festeggia e si celebra a Rosarno, dove abbiamo tutti scoperto amaramente che in questo paese c'è ancora del lavoro che rasenta la schiavitù invece che essere una condizione con i diritti e la possibilità di esercitarla liberamente. Cioè, c'è una strana idea, insomma, che c'è sempre qualcosa più importante del lavoro e della condizione però dei lavoratori. Cazzola ha sentito, dice, insomma, ci sono molti settori, l'informazione, i servizi pubblici, dove si lavora, dove non è che il primo maggio si ferma tutto, per carità, senza volere per questo sminuire la festa, l'importanza. Ma non esiste giorno all'anno in cui si ferma tutto, banalmente ci sono i servizi essenziali, ci sono le norme di sicurezza, per carità, ma possiamo dire che per esempio se si fosse detto che devono essere aperti tutti i negozi nel giorno di Natale o nel giorno di Pasqua questo paese farebbe una discussione stranissima, mentre invece se è la festa del lavoro si può tranquillamente passarci sopra. Che qual è l'equilibrio dei valori per cui ci sono dei giorni che tutti insieme riconosciamo siano giorni di riposo e non di attività lavorativa, se non per quelle attività che non si possono fermare? Lei dice il fatto che sia il primo maggio, no. Che sia una festa laica e non religiosa, questa scatena. Però sa cosa ha detto il vescovo di Padova? Ce l'ho qua davanti agli occhi, il vescovo di Padova: l'apertura dei negozi il primo maggio è un tradimento della grammatica umana fondamentale, un degrado nel senso autentico della vita, uno stravolgimento della gerarchia di valori personali e sociali. Ma infatti io ho sentito l'altro giorno anche la pastorale del lavoro di Milano aver dichiarato cose analoghe. Infatti la mia non è una polemica nei confronti della Chiesa, che in questi giorni ha molto difeso il fatto che ci fosse la festa del lavoro anche come giorno di pausa. La mia è una polemica contro coloro che vogliono invertire le gerarchie dei lavori, dei valori, e che sta soprattutto nelle amministrazioni. Ci sono i turisti a Firenze da sempre, sono andati anche quando c'erano i negozi chiusi. Sì. Non è vero che il negozio aperto è la condizione dell'arrivo turistico. No, però ci sono, vice sindaco, questo mi pare di capire, vice sindaco di Firenze, Nardella, c'è la notte bianca, no? Questa sera, quindi tante persone che domani vorranno comprare. Ma guardi, noi facciamo una valutazione pragmatica da questo punto di vista. Abbiamo una città che sarà letteralmente inondata da persone che peraltro utilizzeranno il primo maggio come occasione di feria per l'appunto. Sì, ma capisce, questo è il pragmatismo che Susanna Camusso contesta, cioè il pragmatismo di fronte a un valore che, no? Questo. Ma non c'è dubbio, ma guardi, facciamo allora una riflessione seria sulla festa dei lavoratori. Guardi, io insegno all'università, i miei studenti non sanno neanche dove è nata la festa dei lavoratori, quali sono i valori reali. Non, facciamo attenzione a non pensare che ora il fatto che le amministrazioni comunali, e tra l'altro molte di queste sono di centrosinistra, Siena in Toscana, Genova in Liguria, Torino in Piemonte, il fatto che queste amministrazioni concedano la facoltà ai negozi di aprire sia la vera causa, è come dire il vero elemento di destabilizzazione di una festività sulla quale bisogna fare una riflessione che è molto ma molto più seria e articolata. Ho paura che diventi un po' la foglia di fico con la quale noi ci puliamo la coscienza se il primo maggio, se i valori del lavoro, se i diritti dei lavoratori sono calpestati, e perché ci sono dei sindaci che danno la sponda, che danno l'alibi a questo, c'è una sorta di pragmatismo, come se l'amministrazione di una città non dovesse essere fondata anche su dati di questo tipo. Allora, se c'è tutto questo, c'è la crisi della festa dei lavoratori. No, ma è chiaro. Poi... Io penso che sia una, diciamo, argomentazione pericolosa. Perché? Perché individuerebbe il problema in un fatto diverso, in un fatto peraltro, ripeto, dettato dalle esigenze del governo di una città, un governo complesso. Io sono d'accordo con la riflessione di Cazzola quando dice: noi non è che chiediamo che le fabbriche aprano, giustamente c'è una misura che è circoscritta ad un caso, peraltro al centro storico. Se noi avessimo un approccio politico ideologico di contrapposizione al primo maggio, allora diremmo tutti i negozi la città aperti in qualunque certo, invece sono, è riferito solamente al centro storico, questo cioè, è bene una, ribadirlo. Io trovo, e questo è anche un dibattito dentro il centro-sinistra, pericoloso, perché si vuole fare di una misura amministrativa di alcune città, non è la prima volta quest'anno, sono anni che molte città lo fanno, l'occasione di uno scontro che se non addirittura ideologico, comunque è politico, e invece non c'è assolutamente. Allora, devo andare alle informazioni sul traffico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Lei mi vuol sfruttare anche il primo maggio? Sì, ma in modo innovativo e non ideologico. Questa è la vignetta di Staino, pagina 3, l'unità che onorevole Cazzola l'ha fatta sobbalzare. Che è successo questa mattina quando ha visto questa vignetta? Dice me? L'ho detto, io sono sobbalzato e per fortuna che ho pochi capelli perché mi sono drizzati in testa. Insomma, se noi qualcuno va a sciare, non io perché non sono capace, trova centinaia, migliaia di lavoratori che lavorano Natale, che Santo Stefano, Capodanno. Per Capodanno lavorano moltissimo perché organizzano le feste negli alberghi, fanno il lavoro notturno. E al mare, il giorno in cui negli alberghi si lavora di più, è Ferragosto. Quindi io veramente sono allibito io da questa levata di scudi. Mi ricordano quelli che festeggiano il santo patrono del loro paese fustigandosi, no? Fustigandosi, cospargendosi, facendo cioè, prove di superstizione più che prove di fede. Vediamo Luca da Torino, buongiorno, qualche ascoltatore. Luca, che dice? Sì, buongiorno. A Torino buongiorno. Aperti i negozi, lei è contento? Sì, a Torino aperti, tra l'altro, cioè, onestamente non ci vedo niente di male, dal momento in cui è una scelta, cioè non è un'imposizione, per cui chi ideologicamente sente il primo maggio con i valori che derivano, insomma, da tutte le conquiste fatte sul lavoro, sarà chiuso, chi invece no sarà aperto. Io dico solo questo, adesso è vero che se la gente non ha da spendere non è il primo maggio che fa la differenza. Sì. Però magari a Torino, insomma, dopo le Olimpiadi abbiamo effettivamente molto più turismo, per cui voglio dire, un americano che arriva qui in questi giorni, dove tra l'altro c'è anche il discorso della sindrome, insomma, trovare dei negozi aperti non ci vedo niente è di meglio, male. È meglio. Va bene. Personalmente, se posso dire ancora questo, scandalizza anche me, non dico il perdere tempo nell'argomentare una cosa del genere, ma sembra di, che ci siano problemi molto più gravi. Ma ci sono sempre problemi più gravi, voglio dire, ma ogni giorno scegliamo un argomento e guardi che il dibattito sui giornali c'è da giorni. Giuseppe da Andria, buongiorno. Sì, sì. Giuseppe. La saluto, buongiorno. Saluta me o saluta Giuseppe? Giuseppe, la saluto, buongiorno, cioè questo è il suo intervento. Vabbè, andiamo a Verona, da Luciano, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo dire solo una cosa. Non vedo tutto questo casino inviato per i negozi tenerli aperti o tenerli chiusi. Io dicevo alla signorina prima, è 20 anni che lavoro in un'azienda dove se devo lavorare lavoro di sabato, di domenica, di notte, di Natale, di Pasqua e il domani, che è il 1° di maggio, lavoro dalle 2:10. Quindi non vedo dov'è tutto quanto sto problema, visto che non è un'imposizione, come diceva il signore prima, sì. Non vedo dov'è tutto quanto sto grande... Qual è il problema? Allora, Susanna Camusso, provi a rispondere a qualche nostro ascoltatore che non capisce. Sui giornali molti dicono è una questione, per esempio ieri leggevo su Italia Oggi, è una questione di libertà. Perché non lo capisce il sindacato? La libertà, a parte che il lavoro non è solo il lavoro dipendente, ovviamente. Tutelare il lavoro vuol dire anche tutelare la libertà dei lavoratori, magari autonomi, che vogliono tenere aperto. Anche tutelare la libertà del consumatore, che deve avere la libertà di poter scegliere. Addirittura Italia Oggi dice 24 ore su 24, se 365 giorni all'anno, di essere soddisfatto nelle proprie voglie di esigenze di richiesta. Perché questa battaglia di libertà, che dicono anche molti ascoltatori, non, lei probabilmente dice non è così? Intanto vorrei sottolineare che quando si usa sempre più spesso impropriamente sia la parola ideologico sia la parola libertà, perché il tema ovviamente non è se il titolare di un negozio ritiene lui di lavorare, il tema è che l'apertura dei negozi porta con sé il comando ai lavoratori dipendenti di quei negozi, che non scelgono liberamente di lavorare il 1° maggio, ma sono i loro datori di lavoro che scelgono di lavorare il 1° maggio. Quindi usiamo la parola libertà con qualche cautela e facciamo anche attenzione, perché quando poi si risponde rispetto al 1° maggio dicendo ma non sono aperte le fabbriche, è come se ci fosse un lavoro unico che è quello della fabbrica, mentre tutto il resto sono persone che non so, passano il tempo, invece non è così, il lavoro è tanto diverso e andrebbe tutelato sempre. Vorrei anche dire che c'è una strana idea in cui l'unica libertà delle persone è il fatto di poter spendere soldi e consumare, ma questa è l'immagine della società, è l'unica modalità che ci proponiamo. Quando si dice ai turisti, ma si vada nel nord dell'Europa, il sabato e la domenica i negozi sono chiusi, alle 5 chiudono e hanno degli orari e delle regole, e anche chi va in un posto più o meno si adegua a quelle regole, quindi in realtà si è una logica tutta del nostro paese, perché in altri paesi quando ci sono delle feste riconosciute come tali non ci si immagina che il consumo sia l'unico motore di tutto. E poi insisto, si può dire che c'è una crisi molto più grave e non si capisce perché si discute di questi problemi, devo dire che siamo abituati a discutere di qualunque cosa tranne che della crisi in questo anno e mezzo, ma ben venga se una volta si parla del lavoro e si prova a ragionare sul fatto che dei valori del lavoro ci sono. E l'argomentazione del vice sindaco che dice ma la crisi dei valori del lavoro non deriva dall'apertura dei negozi, certo, però non è che siccome c'è già la crisi possiamo incrementarla, forse bisognerebbe ridomandarsi perché il lavoro non è un punto di riferimento delle politiche, dell'attenzione, delle scelte che ci sono. Queste sono le domande vere. No, ma è su questo che io vorrei chiudere. Cazzola, ho 30 secondi, però la logica del profitto, dello shopping e del consumo. Guardi, allora diciamo, prendiamo il turismo, no? Non si capisce perché in una località marina oggi è il 1° maggio, magari gli alberghi restano aperti, non è che gli alberghi chiudono e vengono sbattuti fuori i clienti, no? E mentre in nome del turismo, che è un ricchezza, una risorsa del nostro paese, Firenze non possa aprire i negozi che vogliono stare aperti, i ristoranti che vogliono stare aperti, i musei nel centro storico. Io sinceramente faccio fatica a capirlo. Va bene, ci fermiamo qua. Votate e vi state dividendo sempre. Il 51% dice sì, d'accordo con il negozio, ma il 51% quindi metà e metà. Ringrazio sia Susanna Camusso, l'onorevole Cazzola e il vice sindaco di Firenze Dario Nardella. Ci fermiamo, ricordate che tra poco c'è Oscar Giannino. Grazie anche ad Alessandro Marco Tulli, anche oggi agli straordinari. Insomma, sta Sara Spriafico dov'è? È andata in giro per l'Italia, vabbè. Peter Bescapè in regia e noi ci sentiamo lunedì mattina.